anziano, se mi scusi. E io. Oh. Chi è lui? È bello. Chi è che sta parlando? No, no, no, non lo so. Chi è lui? Mi piace questa. Cosa? Ho capito. No. Mangia il mandarino, dove è il mandarino? La banana. Ma com'è, non ha più il telefono, sennò ti devi farti pure qui. Vabbè. Bubu. E chi è? Ehi, bubu. Bubu. E che hai scelto tutti i carichi? Signore! Me lo vi. Fuggito, E a me? Mi togliere. Bubu. Ah, scusa. Olè. Io sono Bacchì, ma in macchina sì. Sono sicuro. No, non è sicuro, no. Da Antonino gioco. Oh, da lui sì, in campagna. In campagna, mi sono fermo a salutarla, lo saluto e me ne sto andando. Sentite lo sportello, è chiuso. Chiuso hai. Perché noi stiamo parlando anche in 27, con io e Gio Maria. Se io finisco lì un po' garido l'apparecchi. Cazzo, se siete lo sedile, che sono della 27. Ah? Eh? Voi visto dalla 27, ma è stata l'uso dire. Ma con chi sei più forte, dici? Chiaro. Buonasera, Domì. Adesso la vita Antonio. Dai, sentiamo poi tu. Ehi, ok. Sentiamo dopo, Bacchi. Sto. Chi è? È sempre io. Tonino ti saluta, mi manda salutarti. Dai, tanti saluti da parte mia. Ciao Marie, che stai facendo c'è? No, fuggito sì. Bubu. Ore. Ehi, a Gio Marie. Ma ti immaginate, gatto. Boh, non so che... Cosa aveva? Pizzini, so. Certo, con i frusci, Ciao, Lupo, la sera. A vanno per il ponte, comprire. Prima... già, a voi non risponde. A chi ha detto che è vagognoso stasera? Gio Maria, stavo rispondendo a Luca su WhatsApp. Ma voi dove, in che frequenza siete? 081, giusto? O 080? Io non ho capito niente, Luca. Ho detto, voi siete a 081 o a 080? A 081. Invece Luca è a 080, boh. Devo dire scimari, Edo. Mi ci sarebbe beccato il numero a Plattamona. E lu! Sai che mi fa l'aria, va, su che Plattamona, Ma via, per carità. Cazzo. Ma con un pare che ti mangi, a magna, lu. Boh. Dore. E a Gian Maria. Ma chi c'è ancora c'è? Oh, ha chiuso perché in campagna da un altro... un'altra persona. Ho capito. Ok, attento, Montanaro. E a Gio Mari, dimmi tutto. Allora chi non risponde subito a Gio Mari? Beh, cosa si ferma? Niente. Sai quante volte io ti chiamo e tu non mi rispondi, mica ti dico niente. Molte volte ti chiamo e Gio Mari non rispondi. No, stavo guardando una foto che mi ha mandato Luca. Rispondo sempre, mi. Certo, se me ne fai chiamata 50, non posso risponderti per 50 chiamate, Luca. Molte volte ti chiamiamo e non rispondi, capito? Ringraziamo lo stesso, ti chiamo e non rispondi. Va, Gio Maria la domanda ce la passa al forno. Siccome sto anche scrivendo su WhatsApp con Luca, e poi mi hanno mandato un messaggio per riparare un telefono. Capito, Gio Maria, ecco perché non ti stavo rispondendo. Avanti. Vabbè, se sei impegnato è un altro discorso, capito? Così che non è che non ti chiami, io ti chiamo lo stesso quando tu mi chiami, certo, se sono coricato e che non hai acceso non ti posso rispondere, no? Ma se no già rispondo. Cappa, avanti, Tore. Ma ecco! Chi è costui che vuole entrare? È chiuso il portone. E non ce l'hai finestra? Ah, lo chef è questo qua, Fallo entrare tu. Vabbè, Tore si è affrettato, vai. Avanti tu, vai. Basta la circolare a tutta la rotta, chi c'è tu, Tore e Luca e Bu. Ce ne sono tre o quattro. Tori non ha risposto. Luca, già c'è. E poi non so se altro c'è. Filippo, non so se c'è, boh. E ma chi c'è? Non c'è neanche Luci. Chi c'è sempre Zappenni? Chi c'è in mezzo alla Galafiori? Che ti diventa un carciofo, diventa. E allora, per carità, lui gambe se ne raffende, tutti i gambe ne cadete dalla sera, ragazza. A chi va? Se ti intendi la baba, che l'altra di mi ha detto che i curracci quindi mangiano tutta la baba, non mangiano. E io la dico a postarci con la carabina. Chissà se mi ha poi strumenti. Non saranno, apparentemente. Dalle altre parti, un cane. Arumaku contiene il suo, la sua merce, bella riservata. Meglio che si la mangia lì, le curracce allora. Si apposta, la di tutti i miei mittizi, di buon mese la baba. Come ti va la dici? Tore! Sì, Giovanni, fino a che faccio tu? Tu! Vieni per lo chef, vieni. Tore, caggiù tu sei. Che non ti sento più, ma lo bene. Torre deve essere guidata, deve essere la strabassi, Torre, dai. Oh, Giovanni, faccio due demoni, nonchi, pacare dai. I minori, vai. Ma tu hai messo le minori? Sì, mi sono bugliendo. Almeno ti risvegliano, gatta, dai, che fa piacere, dai, quei bambini. Specialmente i nipotini, catta, glielo grivi. Aspetta, cuffetta! Ciao, brabe, ma non vi piacciono quelle pennette però che hai cucinato? Non ne voglio pennette, la prossima volta metti un'altra pasta. No, non mi piacciono le pennette, non mattinarmi. Solo quelle piccoline, fini, quelle si chiamano, quelle che hai fatto tu. Sono sedanini, sono, non sono pennette. Ma vai che sono pennette, mezze penne rigate, quella si zenne, fine, a sedanini. A me l'unica pasta che non mi piace, i bucatini, non mi piace che sia minita, ma di schifo proprio. E poi ci sono altre paste, ma sono poche. Io ho trovato, mangio tortiglioni, vabbè, gnocchetti, mezze penne, siano quelle corte e corte, quelle che leggermente più lunghe, e poi i fusilli, poi vabbè, la pasta lunga mi piacciono le baffettine, del resto no, gli spaghetti li odio, numero 5. No, io, a parte quelle penne, quel tipo di penne che hai cucinato tu, sì, le bagno, ma non una volta mia moglie di babba, ma no, non mi piace come tipo di pasta. L'altra già la mangio tutta volentieri, l'altra minestra, gli altri tipi di minestra, di pasta. Però, boh, sarà chi a ripilare mi dà gli anni giugnati buditi, non vedo né burro, né osso né cacio. Un arrivo in anni benetti, dice al sugo e non ero sugo, ma ve l'avete fatto viaggiare il sugo, ci sono pallidi. Cavolo pallidi, vabbè. No, vabbè, io già ho fatto la pasta, a me mi piacciono i gnocchetti, quelli piccoli piccoli, mamma mia, li amo proprio, buona riso. Quelli io me li mangio col cucchiaio, no, mica meglio la bucchetta. A me piacciono bene quei gnocchetti piccoli, quelli normali della Barilla non mi piacciono, perché quando le cucini diventano più mani non mi piacciono, quelli piccoli sì, anche li maruleddo so, quelli già sono buoni. Anche Gio Maria li mangia un bel di gigioli, vero Gio Maria? Ehi, chi c'è roba buona? 10 minuti, col sugo col macinato, a ragù. Lingua paletta, dammi un cucciare, dammi, me ne mangio con un cucciare, cosa devo fare con la bucchetta così? chi ne fa la legge in terra e mi vado con un cucciaio. Poi la reddito, no, quelli già mi piacciono, a voglia, anche le bavette, anche quella che non piace a te mi piace, quella che è bucata, come te si chiama? Giammari, chi ci bucati, longhi, bucatini, a me mi piacciono quelli, anche a Giammari piacciono. A me piace tutto. A me piace tutto, trae una cosa, trae la bassa forno. Chissà non mi piace proprio. Però la parte mia la do a Luca, vai. No, la bassa forno ce la mangio, solo non ne mangio un bea che ti gribba. Se ne mangio, se ne mangio un piatto tipo come se mi mangio un piatto di gigioni, ma senta, non mangio altro. Tu qua ne mangio un pezzetto, la mi dai di una druga. A chi ti dà ciombe? Ehi, poi mi ha cagnato quella buchetta, anche se mi quello cucciare ci deccia subito, invece quella buchetta ti ricordi più poco, capito? Sì che c'è di più a riempirti la mattina. Ehi, ma è buona sì la pasta al forno, che è tutta bella condita, però a me mi deccia subito. A te ti deccia subito, sì, perché mi aiuto pure quello cucciare, pieno, gli arugrivi. Beh, c'è ormai quella bocchetta piano piano, ma la vedi che senti piano piano e riesci a mangiare di più puro. No, la pasta al forno già me la mangio con la forchetta. E lì ci giorno giorno mi mangio con un cucciaio. Mi va di più bene, poi mangio di più. Ah, cosa fai? Hai goduto dura, vai, grazie. Io non ne masticheggio, Vo sta succiadura, oi! Si fa delica paletta, mettimelo un altro po', e chi da un bel volte mi dirà, un bel volte mi dirà, no, non ti dà qua a basta. E se dici no, no, e non mi dirassi. Tu fai così, pigli un po', non molto grande, grazie. Ti metto il rubriciolo buono, un piccio d'aglio, appena una goccia d'uso d'oliva, pigli un po' per frippare proprio a panza proprio al fuoco, lo fai rosolare bene, fai tutto rosolato alla base, all'astra lo dai a pezzaretti, da poi così leggi il marronetto se ti muovi treccio, da poi mi torna in pozza. No, a me il marronetto se mi piace col sugo fatto a ragù o col suo con la salsiccia, a me io ne mangio un bel così, anche mi piace il bruppio. Però vedi, per la pasta al forno preferisco di più i ravioli, li mangio più con gusto, poi quando me ne mangio un cicco di ravioli sto gove, di più non ne mangio, anche pure che si di decciali. Aspetta perché abbiamo un attore, Tore, giocato di sì. Ti ha giocato di vura, ma rompe nei sciatoli. A me non ti diverti tu. Ti fai dentro rapisino. No, mi ha tenuto il vasilio. Non basta tutta la di. Chiami la ridura di chi non vi sei entrare in chissà gamma la unità di radio che ti rifaggi di nuovi nuovi. Chi non ve la via in occhia varava. Come se ne fa vita. Ma adesso c'è di tu, io sto dicendo qualche giorno che capita che tu non ci sei, magari gli metto mulini. Tra i chivi. Gli altri si rivede che ci varacchini, ammazzati, ma non sicuro. No, non v'entrano i 30 in occhi, sta tranquillo che non v'entrano. Dove vado a entrare se non vi so io. A chi non lo sai come tesoro i bicchini? Uno c'è già di tutto. No, ma non toccano in nulla, non toccano. Se non ci sono io non ne accendono neanche. Anche per prima di arrivare a accendirli, la cosa da accendì. Vabbè, stanotte Gianmaria a cena ciò. Il sugo l'ho già fatto poco fa. a pomodori a pezzettoni, sia da drittata e pomodori a pezzettoni. C'ho ravioli, mi pare che sono gli spinaci, e poi appena viene la padrona, oggi al balletto, frigge le melanzane e melanzane impanate. Ma impanate, alla parmigiana, ma ho grattugiato un pezzo di parmigiano, reggiano, così esci di più buoni. E non la davi. Ma mangiare poco, però se no è troppo pesante, questa cosa è pesante la luce. Capito? No, no, io faccio un pesce a insalata, solo un pesce a insalata e saluti. Sì, come si chiama, che ci viene buttito a voi con aglio prezzemolo e l'olio d'oliva? Boh, il merluzzo, cioè è buono. No, già ne mangio poco, già mi stendo ancora a deccio da mezz'ora, boh. Oggi mi sono fiata a sabata, ma paro un trichecco, paro, Luca. Tu ti riesci in bottiglia, te caramelle, giuffa ciuffa, io mari. Oh, yeah. Da voi luci la metta, graziamo. Catto i ravioli. Catto lì che sono pesanti, mi. Bello bene. Qua, poco fa, che mi rivolge la luce e la barba. Mi sono pesato, oggi te che mi penso che sono un poco senza pesare. Peso 71,8. Anzi, peso di meno. Prima che sono andato a ripidare, pesavo 75 quasi. Ci devo mangiare Luca, la vedi? Il ravioli del rigotto, catta. Però il rigotto salato, non di chi sono, di caseificio, no. Il rigotto salato, un sapore, questi sono buoni. Me l'ho comprato lì al negozietto, vicino al Barsanna, di Osilo. C'ha le forme piccoline, buona reggio, un rigotto musti, omi. Allora, Gio Marì, Marina ha comprato la ricotta musta alle rospine lì a Pradanieta, ma una bontà, santa e buona, ma buona, buona veramente, costa, tipo mezza forma 6-7 euro così, ma è buonissima. Lì. L'ho pagata io quella, ieri l'ha presa, 5 euro quasi neanche, quella formetta lì, però sono formette piccole. C'ha più volo, sì. Capito, ci lascia più buono che si vince la Barsana, quello porta roba buona, per cui il ricotto proprio di Bassori già è buono, capito? Ma se è un casificio, ho latte cremati, per cui il ricotto sì è buono, però non ha sapore come te di un Bassori, capito? A me ogni tanto mi arrega meglio dal paese, capito? Così che è proprio dal Bassori. Allora gli romagno già. E quando mi porto le orecchiette mi. Gatta, gatta reggio, mi ne magno. No, questa ricotta è buona, proprio buona, buona. Un pezzo attira l'altro, adesso la prendiamo un altro pezzo. A me la ricotta mustia mi piace, però mi piace, sai quale? Quella col peperoncino, che non la fanno. Se riesco adesso magari tramite qualcuno che la fa, la compriamo, però col peperoncino, non con quello in polvere. C'è il peperoncino dentro, è buonissimo, Gio Mari, ma buono davvero. Cosa mi dai che te la forzavi? Bisogna vedere a quanto è, fammi sapere. Domani ti faccio sapere, chiamo un amico e ti faccio sapere se ce l'ha. Bambu che stai giù, buona riggio, Sì, atto, grazie. E domani mattina chiamo un amico e ti faccio sapere. Mi fa prezzo buono, dai. Perché l'abbiamo presa, però l'hanno messo sopra, quello in polvere, e non era piccante. Vabbè, se devo mangiare una cosa, la devo mangiare, quanti li voglio io. Fatti dire quanto è, più o meno, al chilo, così, che non siano grandi le forme, che se mi indui. No, ce le ha, le fa grandetta la forma, da 15 centimetri, larga 15 centimetri, e quella da 10 centimetri ti fa. Che però c'è il peperone in mezzo, hai capito? Peperone, pezzi di peperone. peperone, pezzi di peperone, bravo, proprio quella. E che non sia asciutta, deve essere abbastanza, cioè, e poi già penso che anche tu la mangi, se la asciutta non si fi. Ma tranquillo che la fa lui, la fa questa. Se ce l'ha, glielo dico a quanto la sta dando. Hai capito? Dica quanto la sta dando e poi te lo dico, ti faccio sapere. Via, di lusso, vai tranquillo, va bene. Avanti, grazie. A ti piace la ricotta musta con peperoncino? Peperoncino, con lo pezzo di peperone. Diciamolo con voi, pezzi di peperone, piccante dei passi. Ciao Mari. E sta bava, la Graziano, che aggiunto la Cadrea è. E chi? A metà sei uscito. Sì, un po' di volte viene male a schiacciare. Aspetta. Cosa hai detto? Non ti ho compreso. Ho detto che schiaccio male, molte volte. E cosa fai? Ah, chi gli trova un coso in gomma? Chi trova un coso in plastica? Dove ho un coso in plastica, di plastica da schicciare, io invece devo schicciare la gomma. Niente. Ma già è maduro il microfono. Va. Grazie. Aspetta a far, riprendi. E Luca, pensate di cosa mangiare, saluti. Non vi ha pensato da altro. Io che si vive in magno. Che si dice che io, tu che si guarda assato e penso. A parte abbiamo troppo e vi dicevo che non fare niente. E infatti, senta, bebù. Andate, grazie a mandare di pecca, per carità. Grazie, adesso è per mangiare di dolci. Mangia chi ci lo mangia il dazio. Catta, la. Cosa può mangiare? La cosa è tu mangia, la cosa lo devi mangiare. E poi magari dici che mangia un pezzo, poi mangia magari un pezzo e la brulassa. Infatti, da come ti desiedo, ne mangia un pezzarito. Certo, e sarà, come c'era, insalata. Certo, gli occhietti, cosa tu, le, come si chiamano, va. Che ci ho fatto un ragazzo, come ci siamo, io non me la metto più. Che ci sono bevaroni, se contammo se con il peperone. Oh, a pan Napoli, cattoli, non le marurette sono, cattoli, buonissimo ravioli. Ah, ho le orecchiette. Dici che mangiano ravioli, salucci, hai inteso, e le melanzane. Cattale, è proprio il ravioli che sono un bel pesante, la rotti. Vai dai, io l'ho fatti, la salì, li ho fatti, me lo sono fatti io, con un rigotto e spinaci, e un pochettino di spinaci in mezzo. Gatta, mi ha ravioli, la sono usciti poco maduri. Beh, con gli spinaci è buono, sì, praticamente ci sono rigotto che... Ti stavo dicendo io, proprio da rubatore, no? Che ha un sapore. Ma ci tuo serve. Pigli un pacco di latte, no? In negozio. Un litro di latte. E ti buoni la dazza. Poi buoni una dazza di latte di rubatore e assaggi l'uno e l'altro. Dopo mi darò la risposta che un latte più buono. Gio Maria, aspetta un attimino che sto dando roba a mia figlia. Vai. Luca. Gio Maria, io penso che la differenza ci sia, Differenza è, don Gatta. È tutto un altro sapore, capito? Invece, che c'è un cacciolo di negozio? Eva colorata, non ha sapore di latte. Invece io sì intendo il sapore di un latte, caccia domani una tazza di latte, si muore caccia mezzo marino dentro, è un'altra cosa, dai, solo un sapore che ti dà, si caccia, però non tutti magari che, il latte che non è scremato lo possono mangiare, anche quello c'è. Perché magari non ha scavato, poi non può mangiare qualcuno e non ne mangia. Ma se invece che può mangiare tutto, gatta, anche... Gatta, io non ho scavato, no, mamma mia, quanto è buono, gatta. A poco, gatta. Un litro vi ridichi io. No, allora, io il latte normale non ne posso bere perché mi fa male. Sto bevendo quello senza lattosio. Quello sì lo posso bere. Quello lo posso bere a litri. Quando se bevo quello normale, io non esco più di casa. Però metti un regoccio, no, un regoccio buonissimo. Un regoccio fresco, no. Da chi su pastorizzato, all'astro c'è la grossa differenza, capito? Ma è sempre tutto questione di gusti, perché lui non lo può mangiare, lui non lo può mangiare, capito? A me piace, anche se non lo posso mangiare, magari perché mangiarmi, non so, un pezzo umano, mangio un pezzo minore, però manco so che mangiare un pezzo ricotto molto come ci si deve, capito? Che piace a me. Oh, è strana comunque la cosa, cioè, Maria mangio ricotta mustia, ricotta fresca, formaggi, mangio la pizza e nella pizza c'è la mozzarella e non mi fa niente. Bevo il latte, quello normale, sono fottito, me ne devo stare a casa. Latticini che sono leggeri, che sono latticini magari fanno meno male, dai, meno male. Però non ti dà che la sostanza che c'è il latte proprio, capito? Ecco, faccio bene. Sì. Ho capito, e vabbè. Farò a meno. Mi invece Graziano non li può mangiare proprio, è vero Grazia? Sì, si mangia tutto, si mangia tutto, a voi si lamenta. A lui si mangia tutto, si è finito come ti dicendo. Boh, se devasse a quel cacca piccolino, dovesse andato Graziano. Sicuramente sì. Che ogni tanto sei gente, deve fuggire per forza, eh. Deve scappare, in bagno anche lui. Vabbè. Vabbè, finito avete quel lavoro lui. A voglia. No, è meglio così là. Altri la vedi in giro. Sì, siamo andati a fare un altro preventivo, là. Adesso aspettiamo... a Lucca, a vedere un po'. Così. Meglio che finisca. Vabbè, adesso poi faccio, ma adesso iniziano i periodi, cioè il periodo caldo, magari qualcuno fa qualcosa. L'inferno fai meno, molto meno. Capito? Via. Piano piano, dai. Cioè, se già andiamo ce li facciamo. Piano piano. Quando vai si piglia, quando fai non se ne piglia, cosa vuoi fare? Hai da ragione, tu già. Tempi fai insomma. Tempi duri sono Gio Maria, tempi duri. Lo so, comunque anche adesso lavoro ce n'è poco. E bisogna bicurità, poco poco, e sempre andenti. Infatti, bisogna fare così. Meglio bicurità che a baità. Infatti, meglio bicurità che a baità di zia Ghito. Vabbè. Tore, ci sei. Graziano, come ti sei imparato? E allora, sei contento di gnocchi o cos'è? I tortellini? Sì, di già. Buoni freschi, buoni conviti e mangiati subito. Cioè, non c'è gusto, Gio Maria. Non c'è gusto. Devo fare esagerato. No, si ribiazzi. Arrazia sempre. Già andà piano piano. Mangiare con una bocchetta, non con un cucciare come ti dicendo, a cucciare pieno, e si taccia subito, mentre che faccio con la bocchetta le biglia di manco e c'entra il mio a pienare un sacchetto, e io ce lo vedo, piano piano, e lemme andendi. Io più delle volte mangio troppo veloce, più delle sempre, e mi si riempie subito la saccoccia. Invece è meglio mangiare piano piano, un pezzo alla volta, che si inizia a mangiare la ministra, poi inizia a mangiare il secondo, e poi inizia a mangiare il pastel di formaggio, e poi inizia a mangiare due peperoncini, quelli ripieni, eh? E poi insalata condita, e poi la frutta, e poi c'è anche il dolce finale, eh? Un casino, a poco, poco a poco, sempre andando. E da telefono! E io, certe cose, si rubrima, vi avete un mese, quando cosa è, e secondo non lo zecco nel manco. La frutta sì, ma il secondo non lo zecco nel manco. Specialmente tanto per la bassa asciutta. Oh, io mangio la bassa asciutta, ma il secondo non lo zecco. Però una frutta me la devo mangiare, o una mela, o una bera, gatta, o un avanzo, capito? Però devo mangiare, mangio in fretta pure io, non è che mi si aggano a niente, cazzo, io mangio troppo in fretta. E certe volte magari non riesce a digerire come devi digerire perché la mangi troppo in fretta la cosa, capito? Invece mangiata piano piano riesce più la digestione più regolare, capito? Giovanni, io già volte invece, mangi mi si cocco subito, è sbagliato. Un baccello. Marcello, quando si mangia in presa così, graziale invece, mangia piano piano, un cucciare e si dà subito, due cucciari del peggio. Bene, grazie. Ora il telefono. Ma io sono rientrato. E tu come mangi, piano piano o in fretta tu? Oh, ho accompagnato i miei nipoti giù in macchina dalla mamma. Mi ha detto, come mangi tu, in fretta o piano piano? Ma io ti sento chiaro. Chiedilo tu, Luca. Ti ha detto se mangi piano piano o in fretta. Normale mangio io. Io mangio normale. E boh. No, mi dice che nessuno a me mangia niente. Sì, lo so, non è il fatto che ti segua qualcuno. Fa fare l'impressa. Io voglio l'impressa. È bravo, se ti mangi in pressa. Io mangio a poco, no, in pressa, manco lento lento, normale. Le meremme mangi, da un pezzo va, un pezzo fra 10 minuti. Pezzo fratello mangia tutta un'ora. A succiatura. Tu sei abituato a mare allora, io invece mangio normale. Anna Giovini deve arrivederci. Graziano è abituato a succiatura. La minore è stato abituato a succiare. E una cannuccia, barocco. Ma la bene. E va bene, portati i succi da voi. Oh, quella cannuccia. Oh, questa cannuccia. L'importante è succiare. Ma ci succiate a mezzo di burro, pure mi ne ho dimenticato. Mi ne ho dimenticato. I nocchi vengono a muovere. Allora. Atteso. Cosa mangia a salutti? E mangia i ravioli. Li pensali, come te, la bicirena, come te che la mai saluti. Grazie. Amici, lei arrivi da Bolletta già friggendo di melanzani. La dici tu, mica il parmigiano reggiano te lo grattugiate. Non per i tuoi. Mi ne ero dimenticato di che ci pure Luca. Laggiù intravisto 30 non vorrà di cazzo c'è chi mi vede pure, dammi un burì. Oh boh, ti viro ro, ti viro. Ti viro a bozzi grossa che ti intendi al manco. E allora? A chi è un secondo uno? E tu sei mangiato un primo, un secondo, un terzo e un quarto, da poi fai la faccia di chi, non per altro. E no, ti la metti, ti la fu da un tarrazzo. Dai te, brava Ru, brava. Oh, alle notti me la perdete, mamma e figlio. E io vai, E poi cosa vai a baita? Così la baitetta, alle notti. Ero mangiente, e lei ti me la baitetta. Sì, no, io ero sempre mangiente. infatti, ma di tessere buone che ho mangiato. Ah, di tessere buone, gatta. E la voce della venti, ha ragione Rusi. E ma ti troppo la voce della venti, vero Ru? Allora, ancora detto. Aspetta, poi la faccio una bella, tu la ci togli, mangi. Ah, e tenni. E vabbè, la faccio la salsiccia, buco. I salamini. Poi c'è anche quel formaggio con i buchi. La gruffiera, buona vita. Dai, dai. Dottore Giammaria. Ah, e te la graziamo, intende? Sì, alla gente su. Per carità. Lu, cosa ne posso dire? Paoletta, spiglia la pugna a capo a chissu, che mangia troppo. Io sto mangiando a me, ciaccio. Già non sta curando a pugna a capo, ya. Ma ti ha giusto, la dici spondi l'uretto, ti cappa in terra. Tu prendi la pugna a testa, che mangia troppo quell'uomo, mangia troppo. Eppure abbiamo pensato, oggi pomeriggio mi dai stasera mi posso rudere. Ma di te sono rabbio, le melanzane, boh, niente te, domani rudere, domani ammazzano. Va bene, dai. Se no domani non so buone, a passo più buone appena fatti. Non è così Luca, la domani si diventano i dolci. A troppo parecchio. Sei abbarato, sì. Ma posso fare in graviglia oppure agliato? Tutto qua, 3 euro il chilo. Ma come ti... A pesaredi oppure tutto in trio? No, tutto in trio a chilo. A pesaredi tutto qua, sì, un doppio. Puccia tutto, barone, devi pigliare, per me! Un attimo, mi assente 10 minuti. Già lo sai che da voi mi devi dare con Beto Rimoni. Già lo sai, sì. E Lu? Un bel profumo, Luca, melanzana friggendo. Melanzana a cricchetto. Friggeni, come ti le friggeni, mi? So quale melanzana è viola, ma non ce l'avevi anche nera. L'ho già cucinata. Ah, fatta. Ce l'ho nera e viola. Buono, vabbè, ma la verità mi piacciono solo al forno, aglio e prezzemolo, capito? Ma anche fritte, impanate, però non li posso mangiare. E alla piccinella non ti biasini, aglio, prezzemolo e peperoncino, tipo il verde, mi. Ma a pezzi piccoli? Sembrano i salmetti, sembrano, io me le faccio anche così, alla piccinella si chiama. Sai quanto sono buone. Da Columbano quando guidavo ce l'aveva nel vasoio e mi faceva rubanino, la focaccia, un paio di volte la mattina. Sezia, ma hai mangiato dai gratinati in forro? E cosa? Le melanzane con il sugo e la parmigiana così e il parmigiano sopra, così sì che lo mangiate. Le cose le faccio gratinate. No, gratinate, messe un pochettino di uova sopra, poco a poco, poi gli metto il pane grattugiato con il formaggio. Le fritte, impanate, così sì, e già sono buone. Frisci giorno così, noi mattina assaggio, già li mangio, però mi piacciono di più. O fate nel fuoco, col carbone, o in forno, al prezzemolo, oppure alla piccinella, o se no... Oppure fini arrosto, anche arrosto così, però nel fuoco, col carbone. Fini, è una girata. Poi le condisce al prezzemolo e sono buoni. E anche alla parmigiana mi piace di più, anche io mi posso burrito, l'ubanino, la focaccia, capito? Rimangono un bel buone. Io qualche volta le faccio anche così, con un pochettino d'uovo, senza mettere olio. senza boniusa, che sennò sono fritti, invece sì, sono fatte in forno così, pan appena d'uovo, pane grattugiato con il formaggio, mischiato con il formaggio. No, eppure le provo a vedere qualche giorno a farla così. Faccio una prova. Un po' d'olio e il paese. Un po' di uovo, ma l'uovo ho sbattuto, il giallo insieme all'albume, così è. Ma te vuoi che fai così? Oh, io preferisco più in forno, una metà fatta in forno, tagliati a metà, con un po' di prezzemolo e peperoncino sopra. Anche così già mi la mangi. Aglio, prezzemolo e peperoncino. Anche in forno le faccio, non le faccio solo a carbone, non al barbecue. Le faccio anche in forno, quando sto cucinando altra cosa. Ci viraggio di barro e ci rimongo il burro. Li faccio i taglietti, le accordisco e la metto dentro insieme alla teglia. E già mi piacciono lo stesso. No, sono buone le melanzane. Grazie, tanti modi ci sono, però non ando un bel degoso io, baramizzana. Ehi, già ci sta bene, specialmente se stai mangiando carne, o per dire a mare, te ne porti, in campagna. Io quando andavamo al mare, che poi dovevamo risalire lo stesso giorno, facevamo fettine impanate, melanzane, zucchini frisci, a me piacciono bene i zucchini frisci, oppure le zucchine ripiene fatte in forno, aspetta, quello è lo stesso, le ha fatte da poco e sono buone. Grazie, i vecchi tempi sono passati ormai, avevo toccato tutta la milanesa. E allora io già così leggo sempre come sta sempre il gusto, ma no, aggiungiamo a nulla, già me la faccio la cotoletta alla milanese già. Casa da a Milano me la mangiavo sempre in un ristorante, la cotoletta alla milanese, già era buona. Io me la faccio crissa e gli metto due o tre fette di fontina sopra, poi gli metto un pochettino di sugo sopra, e la pongo io vorrei la diglia, sai, se scioglie di strugaggio, unisci un burro, unisci. Luca! Eia! Io le faccio anche così, le fettine impanate. Speciale, perché di questa maniera si avanza alla sera, non rimani in asciutti, invece se la fai solo impanata, quando alla sera se te ne rimangono. Rimangono asciutte, invece in quella maniera no. Capito mia? Stavo ascoltando quello là che canta Nino D'Angelo a Canale 5. Nino Nero. Vabbè, ma la melanzana che mi piace, arrosto, sì. Buona rete, so coltive quanti dico io. Mia mamma di Maria ne fa buone. Ma che paletta le cucina bene. È buona, ci sto dicendo che farini zalbini, barini. Sono buone. Oh no. Già mi piacciono, anche peperoni già mi piacciono lo stesso. Peperoni, conditi aglio, prezzemolo e peperoncino. Oh yeah! E non sono buoni gli sciacchi. A chi piace, vabbè, a Maria gli piace tutta, in ogni maniera la... come si chiama? Le melanzane. Le melanzane sono buone. Io molte volte prendo una melanzana, la taglio tutta a quadrettini, pongo un filo d'olio, un tegamino, poi ci metto allora aglio, prezzemolo e un pizzico di peperoncino e un po' di acqua, e 3 secondi è già pronta. E poco è buona, amico. Beh, certo. A gusti comunque, dai. Otto. E a Gianmarino. Dai, che tutta gente con chi, dai, ci sentiamo domani. Salutoni, dai, salutoni, grazie a Luca e a te. Chiudo, dai, ciao. E a Gianmarino, ci sentiamo, dai. Ok, ci sentiamo domani. Anda bene. Ti prendi, grazie. Ehi, chi è che sta chiudendo che stava parlando Paoletta? Gianmarino ha chiuso. Sì. Ciao Gio Maria, buonasera, buon tutto. A domani. La 50. E avrà già chiuso là. E io la so, e mi 5 minuti e chiudo anche io là. Luca, riprendi. Ehi, ciao Gio Maria, sei ancora nascosto, dai. A domani, se Dio vuole. Buona cena. Ehi, e Luca Pripe, non si è sentito. Aspetta un attimo, grazie, sto parlando con Mario. Ehi, ok, riprendi l'attore, ma chi se lo senti, se no? Si è filmato da uno vicino a Edo, poi non so cosa, si è alzato, se ne è alzato, boh. Ah, e allora sarà fa vedere con chi c'è amico Giulio. Mi ha detto che ci sentiamo dopo, però non so quando dopo. Magari sarà ragionendo con questo. Chissà che la nata, la campagna. Aspetta 2 minuti. Sì, sono qua. Cucù. Luca! Eh? Ma tu hai sentito niente? Qualche rapina in qualche supermercato qua hanno fatto. Sì, hanno preso. Ma in quale supermercato? Quello di su vicino dove abita Gio Maria. Dovrebbe essere lì la Conad. Ah, non è Sigma, è Conad. Allora ha ragione che si chiama Conad. Non Sigma. O Sigma Armatesi. Conad. Conad, allora vi ha ragione. Ehi, mi cerca di Gio Maria. Permesso? Non è quella vicina a Gio Maria, quella che c'è vicino alla BGVT, vicino alle pozze, là, quella è, quella sì che la Sigma. Ma se la venire a bambi su supermercato, perlomeno abbiamo inteso così. Ma si può? Sì, aspetta un attimo, capito? Sì, sì, avanti, buonasera Bacchisio. Fine Bacchi. Avanti, grazie. Allora te lo dico io, la rapina dove è stata? È stata quella vicina al garage da me. Vicino alle poste, là, quella lì. Quel supermercato lì, che è dove c'era il padrone, il signor Torre si chiamava, che è morto. Così è, Bacchi. Boh, non lo so, è tale squalo, non c'è. Eia, signor Bacchi. Attitore. Eia, signor Bacchi, buonasera. Buonasera, Tore, beato che ti senti, ga. Oia, un detto di campagna. Ma non è che partecipi alla rapina, tu no? Io? Ma chi quando l'hanno fatta questa rapina? Ieri sera. Ah, boh, ma con i sabbia che hanno fatto la rapina anch'io, pensa un poco. Pensa poco, non ti vuoi lavare le mani, grazie, che ti vuoi in mezzo a me. Sì, ma che c'è supermercato? Io avevo sentito che l'hanno in fallimento, e cosa l'avevano appurato? Non c'era più quell'afflusso di gente che c'era una volta, era morto. Ed era ancora ben sicura, io pensavo che l'aveva gli affari sarrato, che l'aveva fallito. E abito ancora, e abito. E che cosa l'hanno pigliato? Se sono andati vuol dire che sappiano che vira niente no. Ma è in cattura lì, ma l'hanno cuccata. Allora era una coppia di fidanzati. La macchina, la chiusura. Per carità, di tutti rimani niente. Quello evidentemente non c'aveva posto dove andare a dormire, a mangiare. E allora si erano bissata così, così aveva a mangiare ma un poco, gratis, dromini gratis, all'albergo di Bancali. Così è lui. E lui? Che pizza, tirati la magna, tirati la camera da letto, vai la televisore, la sala biliardi, cosa vuoi? Ti mandano anche il permesso a fare lavoro e poi rientri, dimmi se vuoi altro. Un colpo di valle avevo da fare l'amore. E tu andi a tappare in campagna e ti sono belli puliti, vestiti, riveriti. Tu c'è la giornaliera, mezzo breco, burito, a conto di la busciacca, la rostra, che paghiamo noi. E vanno in tutte, cosa vuoi di più? Sì, hanno fatto strada morta, da un negozio alla borsa, lì li hanno bloccati, hanno fatto un bel cammino, manco proprio via con le denari imbigliato. Sembra gli altri poveri e sa come si vuoti il tempo, perché ci sta sarrati e rimuniti. Per carità! Non siamo mai d'accordo, non è arrivato pure un'altra! Ieri l'ho vista al telegiornale, però nella zona di Cagliari, non mi ricordo che paese. I ghibi sono impigliati un pezzo di nappero, non l'hanno avuti. Quando vado in questi cose vai tranquillo che si grossi, vuol dire che tutto capito. Tutto organizzato, sanno di pulire i mani, sanno il tutto. Quello della zona di Cagliari, non mi ricordo dove era, sicuramente lì, per la talpa di Trento, a chi è andato troppo perfetto, questo sacco, e chi si non lavora la carta mai, a chi di nagli mi sono puliti. Tipo quella che hanno fatto a 10 miliardi, non so quanto è, tutti i contanti. Questi sono tutti i ritiri dei supermercati e sono di là ormai mica da acciappani. Ti trovano perché sono soldi già maneggiati e non sono segnati né nulla, logicamente. Come si va in realtà? È un bel difficile che ti trovano quando fanno rapine così. A meno che non vi sia che tirata, allora già imbaraghi il fiore, ma non penso, già sono tutti d'accordo. Ma chi tiene di mestiere di Massè? A chi ne posso fuga non cassamento della mondezza? Che sono distratti a chiamare i vigili del fuoco, non può fare niente, è arrivato la rapina. Ma tanto l'hanno imbigliato giù, di chi? Ma... Deve essere un villi. Gente novella. Magari vanno imbruvato. Aiutava a provemmo, stia andando. Se no ci andiamo all'albergo 5 Stelle, ci facciamo vero Mattesi. Chi ci dirà pensare così, mi bacchi? Tu fai il zappa. Albergo 5 Stelle, vanno a mangiare bidro, mio e tutto. E anche la piscina. Allora, vale tutto, ma, per carità, e tu aggiornati di paccati la china, cugnati, poi quel supermercato c'era sempre la guardia giurata, evidentemente non ne avevano più. Deve essere non ve ne sia più, deve essere non ci sono più soldi, e non fanno. Avanti, torre figli. Signor Bacchi, che è te che andiamo bene, andiamo? Oh, andiamo male, andiamo, non andiamo bene. Ci fa male così. Non si lo vede in bacca, vatto. Che hai detto, signor Bacchi? Io. Marino, sentite se stasera. Che l'hai inteso, boh? E da c'è ritirato. Dunque, è ritirato, si è. Ritirato, se si è nascosto, ha paura della frequenza. Sicuramente. Io ho spassato Antonino, l'ho visto dal cancello, mi sono convinto, ma se ci va a fare quattro giacce con Antonino. E mi metto, se non mi credi, lì, nel cancello ero. Poi preso il via, andare via. Per andare via, pronto e partenza. E lì è arrivare qui alla Troce, è pulito, non ostacoli, non ce ne sono. Sì, vabbè. E su Bezzaido, come esce dal coso poi già esci tranquillo? Nel coso di campagna nulla, zero, riporto zero. E a girare devi fare quel giretto là, la rotatoia, puoi entrare. Ma per uscire devi uscire vicino a quella casa, puoi uscire. Per uscire da campagna venire verso Sassari alla cabina elettrica, che c'è l'uscita giusta. Per entrare devi fare la rotatoia, scendendo da Graziella. La prima rotatoia c'è, fai la rotatoia, giri a sinistra e subito a destra prendi il viottolo di campagna. Sì, così l'unica cosa, e vabbè. sempre meglio di prima, Iaea, va. No, devi andare a finire a coso, a Rio Cavaro, girare sulla rotatoria e salire. No, oh, se fai quel pezzettino della rotatoia, fai la rotatoia e quel pezzettino e girare in quel pezzo là, poi dall'altra trovi tranquilla. No, per uscire devi uscire da quel pezzettino prima della chiesa, dove c'è la chiesa. Aspetta che c'è gente, è arrivata gente. Vabbè, io chiudo, dai, ciao Tore, ciao. Oh, Marchisio, ciao Luca, buona cena a tutti, ciao chi è in ascolto. A domani se coincide, riprendi tu. Sì, ok, dai, grazie, ci sentiamo, alle prossime, dai. Anda bene, ci sentiamo domani. Ok, saluta la signora. Anda bene. Riprendi Luca. Sì, ciao, grazie. Saluta Paoletta, buona cena anche a te. A domani. Saluta Paoletta. Ciao Paolè. Ciao Mari, ciao Tore, ciao a tutti, di friggere, boh! Basta! Ok, ciao a tutti, buona cena domani se coincide, bye bye! Bau bau! Ciao Do! Ehi, dammi bene! E mangia poco i saluti, chi sta paito, fa la glicemia! Ehi! Sì, a me da te, non a me! A chi è la viaggio bassa? Hai fatto un metto! Devi abbandonare tu! Anni prima che cucchiamo, mi veniva 370! Sì, sì! Pensa un poco, certo! Ma a me mi pare che mi sia acconciata, è già rimasta a 724, mi è rimasta! No, stamattina 150, sì, a mezzodì 184, una cosa del genere. Adesso subito me la vedo e vedo. No, ma ieri notte prima di coricarmi ce l'avevo un bel alta. No, a me mi si è stabilizzata 124, 120, 119, mi si è stabilizzata così, va. Meglio così, così già è buona. E quando vai da Andrea Bettorogli lo dici. E capace la pastiglia te la leva magari. Ah no, preferisco tenermela così. Se me la lascia così sono a posto. Solo che con la pastiglia gialla è che dovrebbe diminuire. E tu gli porti le misure che ti hai fatto e glielo fai vedere. Non ti lava la bascia. Va bene, ciao, a domani. Ok, ciao, grazie. Domani sono in casa, sono rientrato io e ne ho approfittato di salutare Graziano. Avanti, to. Signor Bacchi, e allora? E allora mi è arrivato uno che mi doveva qualche spicciolo e me l'ha dato. Andemmo, ve andemmo. Oh, Ioia, che andiamo bene. No, male, male. I radiatori ci sono però che stanno sovrappopolando. Non lo so, sono andato da mio genero con le cose, mi giovedì devo riscendere da lui. Siamo andati dall'elettrauto per coso, al prossimo mese a Fammira. Addirittura, un sacco di rongo, C'ha un sacco di lavoro, c'ha un bel lavoro. E c'è da smontarne la cosa, la ventola, la mette sul banco per vedere se funziona la ventola, oppure provarla così staccando il cavo e mettendogli il cavo diretto a vedere se dipende dalla ventola. E la ventola bruciata? A me mi pare di no, se no mi ha detto che c'è un altro fusibile sotto. Oppure la resistenza che c'ha la ventola. Però bisogna smontarla per vedere. Dentro lì non si può vedere un piffero, così è. Bisogna togliere un coperchio, bisogna togliere e guardare se il fusibile che c'ha dentro, che rimane sotto, rimane vicino al pedale dell'acceleratore, vicino lì rimane. Accidenti, ce l'ha... L'hanno messo lì, l'hanno messo. E lì dietro c'è la ventola. La ventola si vede anche il capo, si vede. Infatti mi ha detto così, infatti giovedì lo controllo a mio genero a vedere se stacca l'attacco e fa filo diretto a vedere. È l'unico, andare diretto a vedere se funziona. Perché se funziona diretto vuol dire che c'è quel fusibile che non va. Sicuramente se va diretto vuol dire che il fusibile che è dietro questo coso qua, dietro questo coso di plastica, e devi smontarlo, lo devi togliere del tutto. Perché mi ha detto di controllare i fusibili che c'ha fuori, però sono tutti buoni, non ve ne manco uno bruciato. Quindi è l'altro fusibile che c'ha dentro. Problematico. Perché queste macchine le fanno in maniera che non ci puoi mettere le mani tu dentro. Devi andare per forza a quello interessato. Se voglio domenica la Briami, lo gavavo, insistevo a toglierlo e guardavo. È che non ha giocato, che devi stare troppo incinato, devi stare. Devi stare accapabasciato, se non accapaterra. Sì, e con gli occhi in terra devi stare puro. Eppure i noci in terra, appoggiati nello sedile, appoggiati un po' il petto, però se la testa in giù, e se si calzi male, se uno non è abituato, lei riesce a capogiro. Se non riesce a capogiro, ma di chi non innesce, devo dire, di genucci, ad abbo innesce. Adesso giovedì mi ha detto di portare la mia genere e vedere, lo fa a capo diretto a vedere, se riesce lui. Se no bisogna guardare per forza il fusibile. Cioè il fusibile mi ha detto, dice, la dobbiamo lasciare al prossimo mese. Capito. Ma perché non gira la ventola, non andare a casa dentro, così. Sì, io bisogna buccare una specie di ventilatore caldo e freddo, bisogna buccare. Così per ce l'ho già pronto. C'è un ventilatore qua, non riesco più a acciapparlo. Boh. Oh, me ne ho ordinato uno che fa caldo e freddo. Ah, di quelli a batteria? No, si attacca l'accendisigari, si attacca. Ah, capito. C'è la resistenza a fare a calda. E in più non accende la resistenza e c'è aria fredda. E allora? Dezieuro mi pare, dezieuro, quasi un dezieuro. Si può comprare. Solo che lo devi avere sul cruscotto, così è. Lo devi avere sul cruscotto, lo devi avere. Marco, se nel caso se mi fate, mi ha fatto venire il basciato che la vendeva, mi si è appannato tutto, non riesce a. Se che cammini, entra l'aria fredda e ti si scioglie. Ma che non decide, ti fai mi hai appannato tutto. Infatti, ando più che questo è un problema. Se ti fermi si appanna tutto, oppure andi piano si appanna. Se invece abbassi un po' i finestrini fa circolazione d'aria e va bene. Se no è un guaio. Infatti, è un guaio proprio, certo. Però se fendeva i finestrini non li puoi tenere a becci, che se no ti fanno tutto. Quindi, no, camminando già si appannava. Oh, se ti fermi in anche il luogo, ti si appanna tutto. Oh, se ti fermi, se andi piano, io mi avviso quando se ti mangiani non accendo, che prendeva, non accendi la ventola. Come entri nella stradina di campagna, che andare via al cancello, non si vede nulla, tutto appannato. Infatti. infatti è così. Già sta attento e coso. Adesso giovedì me la controlla lui, me la controlla. La mette prima a vedere dove è situato il fusibile e guarda a vedere. Infatti lui è più esperto di noi, c'ha le mani già infarinate. E io gli ho detto, catta, tu c'hai molto lavoro. No, giovedì già ne ho poco lavoro. Ci avvicini e controlliamo a vedere. Vabbè, poi lui a stare inchinato si è abituato, ma che lo davaglio su io ghisso. Dunque non gli fa fatica. Ah, va bene allora, giovedì. Ma questo giovedì, dunque domani, mercoledì dopo domani le portate. E dopo domani mi ha detto di scendere. E la porto a vedere, che non si bussa senza angoscia, certo. Boh. Anche la mattina si appanna i vetri, se prende freddo, come ti sarri, si appanna tutto. Capito? Anche quello è il problema. Certo, perché siccome ha quattro velocità, c'ha quattro velocità, c'ha. E quindi come lo metti, io lo lasciavo sempre al minimo, lo lasciavo, anche se l'aria fredda. Infatti, c'è quattro velocità anche il mio, a uno io lo metto sempre a uno, sia estate sia inverno. E io lo metto la prima attacca, lo metto, hai capito? La prima attacca, tanto mi sembra che questi aggeggi sono uguali a tutte le macchine francesi. Nuia, bobo, catta, senza le cose, senza il ventolo non si può rimanere. Ci vuole, se l'hanno fatta vuol dire ci vuole. Mi si accende tutto, solo la ventola non funziona. Tutte le lucette, lucettine si accendono tutte, però non funziona la ventola. E dunque il problema è solo della ventola, l'altro funziona tutto. Ed è così, infatti. Purtroppo non fa. Si accende tutto, anche l'aria condizionata si accende. Climatizzatore, tutto si accende. All'infuori della ventola. Il climatizzatore mio non so neanche se funziona. 8 anni non ho mai acceso. Sì. E mi raggiungo, mi fate zincanne, che sanno? Fazi, che vi raggio. Niente, raggiungiamo quasi tutto. No, io non ho mai acceso a chi mi fate in sorretà. E muccio al nastro. No, da me funziona benissimo, e a voglia, se funziona. Certo. No, d'estate la uso parecchio io, l'aria condizionata, quando sto andando a Olbia, a Cusuine. La foresta da lunga, ma io anche quando andavamo al mare, a scrivere di torno non scendevo mai, perché me ne scendevo con un mucco paravara. Come mi accendi, anche in casa, li ho tolti, perché come accendeva ero al curvi, e muccio. Infatti quelli lì devono stare attenti anche, no? A me già non me lo fa. Se ti fa così a coso, allora vuol dire che c'è il filtro d'ambiente sporco. No, non è parli di filtro, parli di coso, allergia, allergico a quelle cose. No, il filtro abitacolo. Quello lì, il filtro ambiente, come ti vuoi chiamare, quello lì deve essere sporco quando ti fa quel difetto lì. A me me lo faceva, me l'ha cambiato e adesso funziona benissimo. Solo che costa un po' garedo che sul filtro abitacolo. E vabbè, se si usa bisogna cambiarlo, ma ripeto, a me mi fa, la macchina è nuova, ma te si cosa, il climatizzatore qua erano nuovi, nulla. Allergia, allergico a quella roba lì. Certo. Come me l'ha dovuto dimontare mezza macchina a Baciambammiro. Che c'era interno, sotto la scocca. Sì, no, è da fuori che va cambiato. E ne devi tu i teggi cristalli, il pezzo dello spoiler della plastica, poi un altro dappo, e poi c'è questa cosa qua, togli quello e togli il filtro abitacolo, grazie era niente, era nascosto. E quando? Benetto, è arrivata l'ora del merendero, le 8. Ok, la chiacchierina. Stai uscendo a tratti, stai uscendo. Peggio per lui che esce a tratti, Tom. Ti stavo dicendo che sto chiudendo perché è arrivata l'ora del merendero. A domani se coincide, saluto la signora, buona serata ancora. Ciao Tore. Sì, ok, ciao Bacchi, ci sentiamo domani. Luca, ancora ci sei? Ehi, mi sto alzando a mangiare. ci sentiamo domani, ciao Ottore, ciao, ciao Bacchissimo, buona cena. Entrate prima, così gli faccio una chiacchierata più lunga. Sì, ok, ciao Luca, ci sentiamo, a domani. Ciao Bacchi! Ciao, signor Bacchi!